Gli uccelli che cantavano sopra, c'era Adesso. appunto, c'è stato il silenzio, poi sono arrivati un sacco di uccelli, è stato bellissimo. È stato bello. Bene. Ma come le macchine sembravano come il mare? E lo fanno. Ah. Poi però a un certo punto, verso la fine, è arrivato un sacco di vento e ho un po' rovinato tutto. Sì, e c'era anche la sua pernacchia. Ecco. Ha fatto così, vero?